Mi dispiace aver dovuto rimandare, ma stavo Ma guardi, nessun in problema, una. non c'è problema assolutamente. Ok. Allora, abbiamo qui i nostri microfoni di Radio Fujiko 103.1, Michele Gambino, giornalista d'inchiesta e scrittore, con cui faremo una breve chiacchierata sul suo nuovo libro, L'Isola, scritta a quattro mani con Claudio Fava. È un libro che è uscito da poco, in realtà, è uscito il 26 novembre. Intanto, ciao Michele, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, partiamo subito da questa collaborazione con Claudio Fava. Com'è nata questa collaborazione e cosa ne è uscito, da questo libro scritto insieme? Ma la collaborazione con Claudio dura da 40 anni. Noi siamo stati due giovani cronisti alla scuola di suo padre, Giuseppe Fava. Abbiamo scritto insieme all'epoca decine, forse centinaia di reportage. Poi nel tempo, diciamo, la collaborazione e anche l'amicizia sono rimaste salde. Qualche anno fa abbiamo scritto insieme un altro libro, prima Granotte, che poi è diventato anche un film che abbiamo scritto insieme. Quindi diciamo che l'abitudine a scrivere a quattro mani l'abbiamo coltivata nel tempo e non è stato un problema. L'Isola è diciamo il nostro primo romanzo d'avventura. Noi abbiamo sempre scritto letteratura impegnata, tra virgolette, la letteratura civile. Abbiamo raccontato la mafia in varie forme. E stavolta ci siamo cimentati in un genere che non è il nostro, che è appunto l'avventura, l'action thriller, il romanzo distopico. Ecco, Ci siamo infatti. divertiti molto a scrivere, diciamo. Ecco, beh, questo sicuramente è importante. Ecco, riguardo al libro, invece, appunto affronta, come hai detto, un tema tanto attuale quanto delicato, quello del terrorismo islamico. Ecco, e com'è nata l'idea di affrontare questo tema? E ti va di raccontarci un po' di cosa parla il libro? Sì, certo. Diciamo il terrorismo islamico è un fenomeno di cui soprattutto io mi sono occupato nel corso degli anni. Avevo già scritto anni fa un libro dopo l'abbattimento delle torri a New York. Questo mio interesse si è intrecciato con il mio amore per l'isola di Lampedusa. Io qualche anno fa ero a Lampedusa per un'inchiesta che poi è in parte l'inchiesta di cui si occupa il giornalista inventato del libro, l'inchiesta sul naufragio del 3 ottobre del 2013. E un pomeriggio, mentre un pomeriggio di ottobre stavo a Lampedusa, il giorno prima era arrivato il solito barchino pieno di migranti che scandiscono, diciamo, il tempo a Lampedusa. E guardando la spiaggia mi è venuta in mente questa domanda: che succederebbe se un giorno invece di un barchino in un'isola che sta molto più vicino alle coste africane che a quelle italiane, sbarcassero 12 pescherecci pieni di terroristi armati fieni ai denti? Da lì è nata l'idea. Poi ne ho parlato con Claudio, ci siamo divertiti, diciamo, a sviluppare questo motivo. Ecco, sì, soprattutto in riferimento a questo è un po' cosa succederebbe se tutto ciò accadesse davvero, un po' la domanda che i lettori si fanno leggendo questo libro. Ecco, sempre in riferimento alla struttura del libro, c'è questo dualismo dove due storie si intrecciano, cioè ciò che accade all'interno dell'isola e ciò che accade invece all'esterno. E infatti la storia è raccontata da diversi punti di vista, di tutti i personaggi, e come mai questa scelta? Ma abbiamo scelto di arricchire la storia di personaggi perché ci sembrava interessante capire cosa accade a gente comune e a gente non comune, e quindi al giornalista, alla sindaca dell'isola, ma anche alla ministra, al presidente del consiglio, diciamo a personaggi di varia estrazione e natura, cosa accade quando si trovano a dover fronteggiare un'emergenza del tutto inattesa e imprevista. Alcuni dei personaggi si trovano a lottare, altri a prendere decisioni fuori dall'isola. Tutti quanti devono fare i conti con se stessi e quindi devono cambiare nel corso della storia, perché appunto si trovano di fronte a una vicenda del tutto nuova per la loro sensibilità. è il classico meccanismo del romanzo d'azione. Si prendono delle persone normali, più o meno normali, e si calano in una realtà eccezionale e poi si sta a vedere che cosa succede. Ecco, anche il fatto che comunque è un libro che affronta un tema molto attuale. E secondo te che tipologia di lettore potrebbe leggere questo libro? Che tipo di lettore ti immagini? Ma mi immagino un lettore che, ecco, chi legge Stephen King, chi legge Ken Follett, può essere attirato da un romanzo d'azione, però tutto calato nella realtà italiana. Diciamo, il romanzo d'azione barra avventura non fa parte, o fa molto poco parte della tradizione italiana. I grandi scrittori di questo genere sono quasi tutti stranieri. Questo è un action thriller, però calato nella realtà, nella nostra realtà, è un romanzo distopico, è qualcosa, come diciamo prima, che potrebbe accadere, anche se naturalmente mi auguro di non aver dato l'idea ai terroristi islamici, ma è qualcosa che potrebbe accadere, e quindi è un action thriller di stampo italiano. Ecco, sicuramente. Dimmi. No, prego. No, nel senso che comunque lascia un po' questa sensazione di insicurezza, che in realtà c'è già a livello sociale questa sensazione di insicurezza nazionale, eccetera. Però questo libro è molto, molto coinvolgente da questo punto di vista. Ecco, a me ha colpito molto un passaggio che dice: qual è davvero la nostra casa, quanti confini ognuno di noi attraversa nella propria vita e dove inizia il limite tra viaggiatore e rifugiato. Ecco, se ti va di provare a rispondere a queste domande, nel senso... Sì, certo. Vedi, Lampedusa è un confine, è una di quelle lande estreme del mondo che separano un mondo dall'altro. Lampedusa è l'ultimo lembo di Europa civilizzata prima dell'Africa. Io e Claudio, da cronisti, da inviati, abbiamo attraversato molti confini, pensa ai confini della ex Jugoslavia, a quelli africani, a quelli in cui i confini diventano oggetti di una contesa e scatenano delle guerre. Abbiamo raccontato questo confine, una guerra alle porte di casa, tutto sommato non molto dissimile da quella che abbiamo vissuto qualche anno fa con le guerre balcaniche che si svolgevano a due passi da casa nostra, che però ci sono rimaste distanti. Questa prova a farci prova a essere più vicina a noi. E poi Lampedusa è anche il luogo in cui sbarcano i migranti. Questo sbarco di migranti nel corso degli anni è stato raccontato sempre più come una invasione. Qualche migliaio di persone che legittimamente, secondo me, vengono sulle nostre coste a cercare fortuna e dignità, vengono raccontati da una certa politica utilitaristica come invasori che vengono a rubarci i nostri spazi. E allora ci siamo divertiti a raccontare una vera invasione da contrapporre a quella inventata dai vari Salvini e compagnia. E infatti il termine invasione è comunque un termine molto forte che diciamo forse a volte non è proprio adatto, come hai detto tu. E sì, esatto. Va bene, Michele, io ti ringrazio, abbiamo finito, era abbastanza breve e c'è stato veramente molto chiaro.